molto forte, molto consistente, che vede il libro assumere molte forme possibili e contestuali. Ecco perché l'avvenimento che ha in qualche modo accelerato questo lungo processo evolutivo che nasce da tempo, cioè la circolare ministeriale numero 16, la circolare del Ministero, il mio, che prevede da subito l'adozione dei libri in doppio formato, cartaceo e digitale, e addirittura fissa una data, che è il 2011, in cui invece l'unico formato sarà quello digitale. Ripeto, questa decisione ha in qualche modo accelerato non il processo che era in qualche modo in atto da molto tempo, veramente da molto tempo. Dopo vi farò vedere anche un dépliant che io come casa editrice stampai nel 98, quindi 11 anni fa, in cui si prefigurava esattamente quello di cui stiamo discutendo oggi, per non parlare poi di altri personaggi, ma questa linea, tanti altri che si sono occupati con grande anticipo e lungimiranza di questi temi. Ma dico, noi dobbiamo oggi in realtà tener conto che c'è stato un elemento che ha scatenato una presa di coscienza collettiva che riguarda il mondo della scuola, cioè molte migliaia e migliaia di insegnanti e molte centinaia di migliaia di allievi rispetto a un problema che fino a ieri era in qualche modo riservato ad ambiti molto ristretti di interesse editoriale, sia per la produzione di libri di nuova generazione, sia dal punto di vista dei potenziali fruitori. Devo notare, prima di passare la parola a Marco Astavigna, un dettaglio che non mi sembra irrilevante, cioè il fatto che ancora oggi, nonostante questo dato, ripeto, clamoroso, cioè di una circolare ministeriale che impone e ragiona pubblicamente, spiega i motivi che inducono il governo a pensare che la scuola debba modificarsi anche nella maniera con cui si fruiscono i contenuti dell'insegnamento. Dicevo che nonostante questo fatto, che io considero solamente clamoroso, in realtà di questa vicenda sui media, sui giornali, si parla pochissimo. Non so se l'avete notato, è come se fosse stato steso un velo, una cortina che attutisce questo rumore, come se non bisognasse parlare di quello che sta succedendo. Io credo che uno dei motivi di questa sordina sia esattamente la forte ostilità che il mondo editoriale ha da sempre avuto nei confronti di questo processo evolutivo. Sono convinto che il mondo editoriale nutra ancora oggi fortissimi timori su questa evoluzione, ripeto, non rivoluzione, su questa evoluzione che rischia evidentemente di cambiare molto consistentemente l'economia del libro. La futura economia del libro è destinata a cambiare e questo suscita timori. Vi faccio un esempio solo per farvi capire qual è la consistenza di questo timore. Non per, dal punto di vista della scuola, che lo sapete benissimo, la scuola comporta investimenti molto molto consistenti, di ogni libro deve essere stampata una tiratura a monte, una tiratura dei saggi, che viene distribuita gratuitamente agli insegnanti di ogni ordine grado, perché valutino il libro. Una volta valutato e quindi fatta quella operazione che si chiama adozione, si adotta un libro come si adotta un bambino e si stringe al proprio cuore di professore, diceva qualcuno, era Umberto Eco molti anni fa, sfottendo questa pratica dell'adozione. Ecco, rispetto a questa struttura molto costosa e farraginosa che comporta naturalmente forza vendita, comporta venditori, comporta eserciti di propagandisti che vanno a presentare il libro ai vari professori, il futuro digitale di quello stesso libro è invece infinitamente facilitato, perché tutto avviene a costo zero via internet. Il libro è nel suo contenuto, fatto di bit immateriali, un PDF viene trasmesso in tempo istantaneo a qualunque destinatario io riesca a individuare in forma di una casella di posta elettronica. Tutto questo sistema assolutamente più, tra virgolette, razionale, no? Viene visto come un attentato pericoloso per la vecchia economia del libro, che diventa molto evidente nel campo della varia, perché i libri che voi vedete in libreria, in questo circuito che è fatto di tanti luoghi, tante nicchie che chiamiamo librerie o cartolibrerie, chiamatele come volete, che devono essere costantemente pieni di libri offerti al pubblico, ma quei libri che assolvono questa funzione di essere disponibili alla richiesta di chiunque entri in libreria, in realtà sono libri invenduti, cioè non sono libri che hanno compiuto il loro circolo virtuoso di merce, sono libri in qualche modo lucciole disponibili per farsi vedere. Questo sistema fa sì che la totalità dei libri che vengono, della totalità, scusate, i libri che vengono messi in circolazione sono una parte sempre più ridotta, finisca con essere effettivamente venduta, e una parte sempre maggiore finisce con essere avere solamente questa funzione di essere disponibili per essere acquistati, ma non saranno acquistati mai. Il che significa che il mondo editoriale è molto esposto economicamente in libreria nell'attuale mercato, molte centinaia di milioni di euro. Questa è l'esposizione attuale. Noi sappiamo che quindi questo è il rischio, sappiamo che non ci può essere contrapposizione frontale, non ci può essere, come dire, i buoni da un lato e i cattivi dall'altro, non c'è quindi una situazione che vede, come dire, una battaglia da compiere di tipo più o meno progressista rispetto a una battaglia più o meno di retroguardia, c'è una situazione oggettiva rispetto alla quale è sbagliato porsi in posizione di negativa, bisogna trovare in qualche modo la soluzione. Non è questo il compito di questo panel oggi, l'ho fatto solo per darvi la dimensione del problema. Oggi il nostro compito è quello di immaginare come sarà il futuro libro. Quindi cercheremo di capire come potrà essere il libro del futuro, soprattutto quello destinato alla scuola. Ma in realtà guardate bene che non ci sarà molta differenza fra il libro come, cioè il libro pensato come contenuto didattico rispetto al libro che invece si porrà come momento di evasione, un momento di puro piacere letterario e così via, non sarà molto diverso nella sua realizzazione pratica, perché certamente noi avremo dei libri che potranno essere fruiti in varie maniere, che saranno probabilmente sonori, musicati, avranno immagini in movimento, avranno traduzioni contemporanee in linea, avranno probabilmente dei dizionari interni che consentiranno di vedere la resa di quella traduzione rispetto all'originale, avranno tantissime cose facilissime da realizzare, relativamente facili da realizzare, e a costi non esageratamente alti, perché non ci sono più i costi industriali, sono solamente i costi specifici dell'editore, cioè quelli che riguardano la costruzione interna. Però ecco, come sarà realmente non lo sappiamo, per ora abbiamo un unico modello, che è il modello base, diciamo così, che è questo formato, che è il PDF, potrebbe essere anche il Microsoft Reader, ma insomma voglio dire, sono i modelli strutture inchiavate, diciamo così, in un certo formato, facilmente trasmettibili e quindi capaci di essere ricevuti a distanza senza modificare la struttura che io ho attribuito loro. Questo è il quadro. Marco Stalina, non mi preoccupo neanche di presentarlo, perché come vi facevo vedere prima, prendendolo un pochino in giro per scaricare il suo curriculum, ho consumato tutta la cartuccia del blu. Voglio dire, questi sono solamente alcuni dei libri che ha scritto, sono 12 pagine scritte in corpo 7, quindi non mi metto neanche a dirvi quanto ha scritto e di quanto si è occupato, ce lo dirà lui se vuole, se ha ad alcune cose particolarmente affezionato, però oggi ecco a lui il compito di darci questa prima visione d'insieme. Sì, ci provo. Allora, ve lo dicevo prima, essendo affetta da fondamentalmente narcisismo, credo, avevo preparato un intervento di dimensioni, come dire, pretenziose, e ho pensato, visto che siamo con tempi che invece non mi consentono di sviluppare tutti gli argomenti, di proporvi la chiave di lettura che ho dato alle cose e poi alcuni aspetti, alcune provocazioni, quelli che secondo me sono come dire, gli aspetti essenziali del tema che ho già affrontato prima con quella sorta di spot, cioè il fatto che quando noi parliamo di lettura dobbiamo renderci conto che parliamo di tre aspetti. I primi sono immediati e nella slide stanno scritti per ultimi, cioè sono gli aspetti culturali, ma ci sono, come noi insegnanti sappiamo benissimo, anche gli aspetti cognitivi, e ci sono, come vi dicevo prima, come vi facevo vedere prima con l'esempio del computer di Negroponte o con gli ebook reader, anche degli aspetti materiali. Perché sono arrivato a fare questo tipo di riflessione? Perché, devo dire, circa un anno fa, alla Fiera del Libro di Torino, ho conosciuto Luigi Passerino, che è seduto lì davanti a me, conosco Agostino Quadrino da tempo, insomma, sono persone che da un po' si occupano degli ebook reader, e in particolare l'anno scorso alla Fiera del Libro di Torino ho avuto uno scambio di opinioni con Luigi Passerino abbastanza immediatamente vivace, perché io ero uno di quelli che diceva un attimo di calma, insomma, riflettiamo meglio. E quindi, siccome poi però sono una persona a cui piace argomentare le cose che dico, sono andato avanti per un anno intero a cercare di ragionare sulla differenza che c'è, ve lo fa vedere soprattutto bene questa slide. Lì ci sono lo stesso libro su supporto cartaceo a sinistra e su un ebook reader a destra. I contenuti sono gli stessi, quello che cambia è il supporto, quello che cambia è il dispositivo di fruizione. Poi ci sono altri esempi di libri digitali. Quindi, insomma, cercherò di intrattenervi sugli aspetti materiali, cognitivi e culturali, facendo un confronto a volo d'uccello, però dandovi idea di quante sono le categorie sulla base del quale questo confronto si può fare tra questi due oggetti, chiamiamoli così, il libro di carta e il libro digitale, dando al libro digitale la dimensione del concetto in questo momento, non tanto della sua traduzione specifica su di un ebook reader piuttosto che sulla fruizione di un libro attraverso un PC, attraverso uno smartphone, attraverso un cellulare, attraverso altri dispositivi. Allora, di questa slide prenderemo soprattutto il confronto tra le due definizioni. Allora, il libro di carta è un oggetto materiale ed è autoconsistente. C'è una piena coincidenza tra il prodotto culturale e il prodotto materiale, e il prodotto industriale. Il libro digitale, quale che sia il supporto di riferimento, per inverarsi dipende da un dispositivo di fruizione, perché di per sé, come c'è scritto nella casella successiva, non è nient'altro che un file. Questa è una differenza importante, come vedrete, perché si porta dietro tutta una serie di altre differenze dal punto di vista concettuale che andremo a vedere. Hanno però alcune cose comuni, vedete, sono destinate alla lettura da parte del possessore. Questa detta così è una cosa molto banale, ma è in realtà il punto centrale, perché il possessore deve essere in grado di leggere nel modo più rapido ed ergonomico ed efficace possibile sull'uno e sull'altro supporto. Ambedue contengono, al di là dei processi di reificazione che sono diversi, elaborazioni di tipo espressivo e concettuale. Questo noi dobbiamo sempre tenerlo presente. Vado rapidamente su alcune, soltanto su alcune voci di questa slide, tratto questa. Nel caso del libro di carta, il livello di leggibilità, la struttura impaginativa è dipendente dalle scelte editoriali ed è fissa. Così come mi consegnano il libro oggetto, così lo devo fruire. Nel caso del libro digitale, invece, la leggibilità e l'impaginazione possono essere variate in modi diversi a seconda delle possibilità che mi dà il dispositivo per le sue caratteristiche fisiche e il dispositivo per le sue implementazioni. Software. Questa è una cosa molto importante. Io ho una madre che sta diventando ipovedente e non è più in grado di leggere libri di carta sotto certe dimensioni, se non con una lente che in qualche modo le riduce il piacere della lettura. Poter fruire di un dispositivo che le consente, riimpaginando in modo automatico, senza grosse artificiosità, di qualche cosa che le viene incontro dal punto di vista di questo suo limite fisico, che non è, come dire, per sua fortuna, per carità, una costante nella sua vita, quindi rispetto al quale si deve continuamente ristrutturare sul piano cognitivo, è stato indubbiamente un vantaggio. La visualizzazione permanente, l'ultima riga, noi siamo abituati dal libro di carta a immaginare i libri come singole pagine o coppie di pagine. Provate a chiudere gli occhi se ne avete voglia e vedrete che questa è l'immagine che avete del libro. Nel caso invece di una fruizione sul dispositivo digitale generica, l'ebook reader funziona in un modo un po' diverso, in realtà siamo di fronte a un flusso continuo di schermate. Il mercato. Guardate com'è complesso il mercato del libro di carta. Esiste il mercato primario, di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ma esiste il mercato per corrispondenza, esiste ancora. Esiste il mercato per corrispondenza misto, per quello per cui si riceve un libro per corrispondenza, ma ci sono anche delle sedi in cui è possibile andare a comprare dei libri, se no si riceve l'offerta. Non so se avete presente, esiste il mercato antiquario, esiste il mercato dell'usato, esiste un mercato informale, quello che ogni tanto avviene a scuola, esiste il mercato illegale. Molto ridotto rispetto a invece l'importanza che ha il mercato illegale dalla parte dei libri digitali. Ci sono tantissimi libri, alcuni addirittura misterioso come fanno a essere stati depositati su supporto digitale, che circolano sul peer-to-peer. A proposito di questo, siccome Guaraldi diceva prima di disegnare degli scenari, vi voglio citare un libro che potete, se ne avete voglia, provare a leggere. Si intitola La Baia dei Pirati. L'autore è Luca Neri e mi sfugge l'editore. Ed è un libro interessante, c'è stata anche un'intervista radiofonica poco tempo fa a questo personaggio, perché questo è un autore italiano che vive negli Stati Uniti, fa un lungo ragionamento su come l'abitudine, soprattutto dei giovani, allo scaricamento delle opere di ingegno da internet debba in qualche modo produrre degli effetti, che secondo lui non sono soltanto gli effetti della chiusura dei siti, della interdizione alla navigazione, insomma quelle soluzioni legislative di cui ogni tanto si sente parlare, eccetera. Adesso non abbiamo il tempo di approfondire questo aspetto, ma è una cosa sicuramente importante. Ancora qualcosa sugli aspetti fisici. L'usura. I libri di carta hanno una certa usura, i libri digitali hanno l'usura del dispositivo. Tenete conto che i dispositivi che noi conosciamo mediamente non hanno usura, perché per i dispositivi digitali vale un altro criterio, che è quella che si chiama l'obsolescenza tecnologica pianificata. Cioè l'idea che io devo continuare, soprattutto se sono in quella fascia di utenti degli dispositivi digitali per cui sono appassionato, è il mio caso, non faccio in tempo ad esplorare una versione di un sistema operativo che me ne arriva un'altra e io non posso fare a meno di comprare anche quella. Così come in realtà non ho ancora finito di esaminare una distribuzione Linux che mi arriva la distribuzione successiva, anzi in quel caso ci sono per esempio per Ubuntu delle scadenze fisse, mi pare primaverili, eccetera, eccetera. Per cui insomma c'è una sorta di rincorsa continua all'innovazione, quindi non c'è l'usura forse, o perlomeno non abbiamo ancora avuto esemplificazioni di usura, ma di dispositivi digitali effettiva. La fragilità. Io ricordo un'amica di mia moglie, quando le ho fatto vedere la prima volta un ebook reader, mi ha detto: e se mi cade si rompe, al momento si rompe. E invece un libro, se mi cade, non si rompe proprio. Poi io ho parlato con tante editoriali dei libri di cui mi servo e lui mi ha detto una cosa interessante, che hanno fatto causa alla tipografia perché i libri sono rilegati talmente male che dopo 2 anni sono inutilizzabili. In effetti i miei che entrano escono da quei microcassetti che ci sono nelle scuole, non so se le vostre sono dotate meglio, ma io ormai una delle ragioni per cui non piglio tutti i libri dai rappresentanti editoriali è che non mi stanno più da nessuna parte. Insomma, c'è un'usura molto evidente, c'è una fragilità molto evidente. Cose banali, apparentemente. Il libro di carta, quando è che consuma energia? In fase di produzione se leggo di notte, o in caso di assenza di luce. Il libro digitale, salvo di nuovo alcuni casi particolari come l'ebook reader, che è in uno stato di inerzia, cioè quando io leggo ma lui non agisce, non consuma nulla e in realtà consumano elettricità, e questo è un problema grosso. Vi farò vedere rapidamente, io ho appena scritto 2 giorni fa un articolo su Pavone Risorse, di cui sono redattore, in cui commento in modo molto critico e anche molto duro, lo dico, i criteri tecnologici che sono appena usciti a proposito dei libri di scuola da adottare in formato digitale, e una delle cose che dico è che bisogna riflettere sul fatto che nelle scuole non ci sono nelle aule un numero di prese in sicurezza tali da consentire, quando anche gli allievi si portassero, come alcuni dei presenti, il loro netbook da casa, di consentire di alimentarlo per un numero di ore corrispondente al numero di ore di lezione. E quindi in realtà capite che c'è qualche piccolo problema conseguente a questo. L'accesso universale, in realtà non è giusto la parola accesso universale, l'espressione accesso universale deriva dalle tecnologie telefoniche. Si parlava di accesso universale quando i deputati democratici del Partito Democratico Americano si sono occupati di che negli Stati Uniti tutti i cittadini avessero diritto all'accesso alle reti, ma per estensione l'uso anche questo concetto. Allora, fondamentalmente sono le pubbliche biblioteche più alcune iniziative di distribuzione gratuita che favoriscono la possibilità che tutti abbiano accesso ai libri, mentre per quello che riguarda il libro digitale, beh, vedete, qui c'è un valore aggiunto enorme, forse non si leggono tutti perché i colori del link me li rendono fasulli, ma credo si leggano, insomma, Wikipedia, Knoll, eccetera, una serie di situazioni in cui è possibile scaricare libri. Allora, quindi soffermo soltanto sugli atti di lettura orientativa, li ho divisi in tre grandi categorie: atti di lettura orientativa, atti di lettura intensiva, atti di lettura per l'elaborazione dello studio. E c'è un confronto tra il libro di carta e l'ebook. Allora, cominciamo dalla lettura orientativa. Quando io prendo un libro lo soppeso, lo faccio, non so se lo fate anche voi, io lo soppeso, lo prendo in mano e una delle prime percezioni che ho è questa, poi lo sfoglio, poi verifico il numero di pagine in relazione. Non lo odoravi? Sì, lo odoravo, però questo sembra addirittura feticista, quindi non l'ho detto, però sì, c'è addirittura tutta una, come dire, una mitologia, no, dell'odore dei libri, ok, lo odoravo. Ho odorato, confesso che ho odorato anche quello, perché odora di poco. Ecco, io per dirvi cos'è il terzo punto, io mi ricordo un mio allievo che scelse, io adesso insegno alle superiori, si fa per dire, una volta insegnavo alle medie, si faceva per dire anche allora, insegnare, non il tipo di scuola, e mi ricordo un allievo che doveva scegliere nella biblioteca di classe un libro e scelse L'avventurosa storia del femminismo, che io mi chiedo ancora come fosse finita in quella biblioteca di classe, però lui mi disse una cosa fondamentale: professore, l'ho scelto perché le pagine erano un certo numero e avevano i caratteri molto grandi, quindi finisco di leggerlo in fretta. Non facciamo così, d'accordo? Però è un elemento che ci dà delle informazioni, magari decidiamo che per esempio è un libro che non ci interessa per un viaggio lungo perché appunto lo leggeremo troppo in fretta, perché abbiamo una percezione della nostra capacità di lettura, eccetera. Poi ci consente di consultare indici e sommari che sono inerti, poi ci consente di posizionare segni nei libri materiali, prendo la penna, insomma, la metto qui, oppure se ho un segnalibri o addirittura qualche materiale più interessante, e poi posso fare delle ricerche non solo attraverso i sommari, ma attraverso un indice tematico. Nel caso dell'ebook, verificare il numero delle pagine non è così semplice, perché non è così immediato, insomma, cioè nel senso che devo andare a vedere se c'è un numero che mi dice in formato digitale quante sono nella barra, eccetera, eccetera. Non posso andare al fondo come sono abituato immediatamente, eccetera. Posso consultare indici e sommari, qui c'è un indubbio valore aggiunto, questi indici e sommari sono attivi. Non vado oltre perché rubo troppo tempo. Quello che voglio dire è che il confronto è un confronto molto, molto, molto approfondito. Non può essere un confronto superficiale e non può essere un confronto di impressione. E non può essere un confronto legato a un concetto di innovazione cieco, che dice l'innovazione è tutto ciò che è nuovo rispetto a ciò che c'è prima. Perché tra l'altro questo tipo di concetto di innovazione è assolutamente contraddittorio rispetto ad uno dei nostri altri leitmotiv pedagogici e didattici, cioè l'idea dell'apprendimento di tipo costruttivista, per cui io devo agganciare le cose nuove alle cose che possiedo. Quindi se il nuovo fosse questa rottura epistemologica e assoluta rispetto a ciò che c'è prima, non funzionerebbe. Vado avanti e vi faccio dare uno sguardo a questa slide. Allora, abbiamo visto che gli uni e gli altri, cioè sia i libri di carta, chiamiamo le pubblicazioni di carta, le pubblicazioni tradizionali, sia le nuove pubblicazioni, le pubblicazioni digitali, sono contenitori di contenuti. Avviene però nell'immaginario collettivo, probabilmente esclusi i presenti, ma è molto frequente, compreso sui media, una sorta di strabismo, no? Per cui quando si ha a che fare con l'ebook, vedete, la dimensione tecnologica è assolutamente prevalente, cioè si tende a discutere degli aspetti tecnologici, si tendono a fare confronti di carattere tecnologici e la dimensione culturale, e invece molto ridotta. Quando si parla del libro di carta si tende a pensare alla dimensione culturale come dimensione assolutamente prevalente, si dà pochissimo spazio alla dimensione tecnologica. Non abbiamo il tempo, ma se, magari poi alla fine c'è un interessante video che circola su internet, lo trovate su YouTube, ce l'ho messo io mettendo Volumen versus Codex, dove c'è un frate che alle prese, abituato a scrivere come amanuense sui codici, sui rotoli, e alle prese con un libro rilegato, e chiama l'assistenza perché non è in grado di gestire un libro rilegato, non sa aprirlo, ha paura di perdere dei contenuti, c'è tutto un gioco di significati che richiama alcune delle cose che succedono, degli atteggiamenti, delle relazioni che si mettono in atto quando siamo di fronte a qualche cosa di tecnologico. Dicevo, sono provocazioni. Io vi propongo questo modello, l'e-lector, lo chiamavamo all'inizio, queste cose le ho elaborate insieme a una persona che fa l'insegnante, la pubblicista, che si chiama Marina Boscaino, e con cui abbiamo messo delle cose su internet che potete trovare facilmente, che riprendono tutti questi temi. E vedete, e-lector viene letto in genere come lettore digitale, lettore elettronico, invece il gioco di parole è lettore evoluto. Allora, il lettore evoluto è colui che fa una serie di confronti, che ha una tale competenza di lettura così acquisita, così consolidata, da essere in grado di decidere che cosa leggere sul supporto digitale, perché ci sono dei vantaggi, e che cosa leggere sul supporto tradizionale, perché continua a esserci dei vantaggi, per esempio, non ultimo, la portabilità. E di conseguenza il lettore evoluto è colui che ha piena coscienza e pieno controllo delle proprie esigenze di crescita culturale, che sa comportarsi in modo autenticamente ergonomico. Questo è il nostro obiettivo. Noi insegnanti dobbiamo diventare lettori evoluti, i nostri allievi devono diventare lettori evoluti, e quindi è bene che nella scuola entrino certamente accanto alle, come dire, ai contenitori di cultura tradizionale, anche contenitori di cultura di tipo diverso. Qui c'è una definizione più ampia che vi faccio soltanto vedere. La cosa importante è che il lettore evoluto, oltre a sapere una serie di cose, ne rifiuta una: rifiuta l'atteggiamento apocalittico e rifiuta l'atteggiamento integrato, cioè rifiuta il rifiuto, insomma, no? E nello stesso tempo rifiuta l'entusiasmo per l'innovazione a tutti i costi, che tra l'altro spesso ci metterebbe in una condizione di insicurezza. Questi sono, sto andando veramente a volo d'uccello, adesso quasi finito, sono i criteri per valutare, ne ho scelti alcuni, sono di più, e poi vedrete alla fine c'è un riferimento su Pavone Risorse dove leggere l'insieme. Qui c'è scritto criterio ministeriale, sono usciti l'8 aprile, DM41, magari non tutti l'hanno letto, lo leggo: garantire massima compatibilità di fruizione con tutti i dispositivi hardware più diffusi. Niente da dire, cioè ci mancherebbe, insomma, no? Però ci sono alcune domande: a carico di chi sono questi dispositivi, delle famiglie o delle scuole? Guardate che non è una cosa da poco. Poi c'è il giochetto che vi dicevo prima, e poi quando anche gli studenti ce l'avessero tutti, l'elettricità, le scuole. C'è stato un mesetto fa a Torino un convegno interessante in cui si ragionava degli edifici scolastici, della scuola come ambiente di apprendimento dal punto di vista fisico-architettonico. Ebbene, un architetto esperto in, come dire, ragionamenti sulla definizione delle città, sul loro impianto complessivo, diceva che probabilmente costerà meno abbattere gli attuali edifici scolastici e sostituirli con qualcos'altro, piuttosto che, questo qualora qualcuno decidesse di investire mai sulla scuola, ma facciamo finta di non affrontare questo argomento qua. C'è una cattiveria sul grembiolino elettronico. In realtà l'adattabilità a qualsiasi dispositivo significa che di per sé lo studente in classe potrebbe avere un ebook reader ad alta ergonomia, come lo faceva vedere Guaraldi prima, piuttosto che invece un cellulare, quello che avrebbe comunque, non si vede perché deve comprare qualcos'altro, dove in effetti con un po' di fatica magari, ma i file PDF si vedono. Ma perché io devo avere un allievo che vede e legge bene e un allievo che vede e legge male piccolissimi frammenti di informazione? Considerate com'è importante che vedano tutti la stessa quantità di testo, perché stiamo parlando di quella quantità di testo. Questo non è importante solo dal punto di vista della mancanza di discriminazione, ma anche dal punto di vista cognitivo. Un'altra cosa interessante, leggo il primo criterio in alto: prevedere funzionalità di lettura dinamica e possibilità di inserire nel testo evidenziazioni, segnalibri e annotazioni. Prima Guaraldi citava il PDF, questa è una funzione standard del PDF, il PDF quelle cose lì le fa. Ok, il problema è che se io ho soltanto il dispositivo di lettura sul quale faccio questa serie di operazioni e mi manca il quaderno d'appunti, ho un dispositivo limitato. Ok, oppure mi riduco a lavorare con due finestre affiancate, ma in condizioni, non rifaccio il discorso di prima, di limitata visibilità. Potrei andare avanti con questa serie di osservazioni, ho fatto una serie di domande e di commenti che qui non ho riportato per ciascuno dei criteri, trovate in basso, credo si legga l'indirizzo da cui su cui potete trovare queste considerazioni più in modo dettagliato, comprese queste slide, che quindi quelle riportate in queste slide che qui non sono forse visibilissime. Ripeto, non è un problema né di sì né di no, è un problema di immaginare, come diceva Guaraldi prima, un futuro in modo molto chiaro. Cominciamo a costruirsi delle immagini che siano delle immagini non centrate sull'aspetto tecnologico, ma centrate sugli aspetti materiali, e qui c'è, come dire, abbiamo a che fare con gli aspetti tecnologici in primo luogo, con gli aspetti cognitivi e con gli aspetti culturali, sfruttando il fatto che noi siamo lettori consolidati di libri di carta e vogliamo diventare lettori consolidati anche di dispositivi digitali. Vi cito un altro libro, se me lo consentite, questo qua, che si intitola La conoscenza come bene comune, un libro recentissimo, di grandissimo interesse, sempre a proposito di scenari, non l'avrei tirato fuori se prima non fosse stato detto questo. Accanto allo scenario che vi dicevo prima, quello di Luca Neri, che dice il peer-to-peer, che sottrae materiale, che scarica materiale alla rete, delinea una nuova modalità di fruizione dei contenuti culturali, c'è un'altra visione, che è molto presente in questo libro, che è la visione del rinnovamento delle enclosure. Per cui qui viene fatto per esempio un esempio eclatante: il costo d'abbonamento delle riviste scientifiche digitali è cresciuto del 263% negli ultimi 4-5 anni, quindi il costo dell'accesso a certe risorse culturali sulla rete è aumentato di fattore 5. Questo rischia di diventare un meccanismo come le recinzioni, vi ricordate un po' di storia moderna, le recinzioni del Settecento, per cui si catturano spazi di bene comune e li si fanno diventare merce, e quindi come tali strumenti di potere, qualche cosa che va venduto. Sono due modi diversi di vedere la stessa realtà 2.0, sapete che poi vanno di moda questo tipo di slogan. Allora, realtà 2.0 almeno due facce che io credo vadano, come dire, messe in relazione tra di loro in modo non antinomico, ma sulle quali vale la pena rifare una riflessione. Ho finito, mi scuso che ho rubato tempo. Grazie, bravissimo. Mi sembra anche a me molto interessante in questa fase di evolutiva.